Cantine di Franciacorta. Un saluto da Home e dalla cantina e agriturismo al Rocol, azienda da 70.000 bottiglie all'anno, tutte vendute direttamente in cantina da 13 ettari di vigneto. Qui vige la filosofia dell'accoglienza per avvicinare i consumatori al vino. Al Rocol, qualcuno ha scritto, fa viticoltura eroica. Il perché lo chiediamo a Gianluigi Vimercati. Tutti i nostri vigneti, le nostre vigne sono terrazzati. Home è uno dei paesi più alti della Franciacorta e quindi dobbiamo ancora lavorare tutto a mano, quindi abbiamo i vecchi sistemi per fare vendemmia, portare tutto a mano fuori dai filari, e questo è uno svantaggio, ma è un bene per le uve perché comunque abbiamo una maggiore esposizione al sole, abbiamo più vento, quindi uve più sane. Questo comporta più costi di manodopera e di sacrificio, però sicuramente dei prodotti qualitativi molto, molto alti. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.